Antonio! Uova! Mamma mia! Cosa c'è? Fai un passaggio! Mi ci può, 1, 2, 3, ola, ola, ola! Abbassa! Addirittura! Cappa! Abbasso cosa, dimmi! Abbassa, è troppo alto quel microfono! Ah, e vabbè, basta dirlo! Così migliore! Oh, fermo così! Va bene, va bene! E l'ho lasciato in... adesso sto tornando a pranzo, diciamo, l'ho lasciato in stand-by. Già va bene, già va bene. Ti, guarda se... Michael, ce n'è in questa radio? No. Deve essere morta del tutto. No, non la sento. Aspetta che... Allora... Ecco qua. Questa è la radio normale, dai. Lasciala così, allora. Vabbè. Ogni tanto bisogna farla andare dall'altro, sennò... Si addormenta anche lui. Ti mettiamo insieme alla mia, vicini vicini. No, già va bene qua. E così dormono. Ma io non voglio che dormia. La mia è in coma, Ma questa non deve andare in coma. Anzi, si deve svegliare al coma. Va bene, meglio così. Ho dato una stamattina alla stazione, diciamo, dai. Perché... era un po' disordinata anche dietro con il capo, perché era tutta momentanea, provette, una volta fatte le prove poi diciamo si sistema un pochino tutto, dai. Cava, già va bene, ogni tanto bisogna riassettare un po' le cose. Ecco qua, e questo è l'altro, vedi, adesso in sintonia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, già va bene, va bene. Ma tra questo, guarda il segnale. Anzi, fa una cosa. Cosa ti dico? Chiudi un pochino, scegliti un numero, tipo 6, 7. Giusto per vedere un pochino, Ci sei? Hai provato? Devo attaccare l'altra, T. Perché così il segnale è troppo alto, quindi magari non riesci a capire cosa voglio fare. Aspetta che attacco. No, mi serve solo che metti il verifichine per una o per l'altra radio, così almeno vedo quale va meglio, diciamo, quale è più superiore. Capo, aspetta, che commuto dall'altro. Tino. Pronti? Aspetta. Prova. Ecco, prova a mettermi in un segnale stabile, anche 6, 7, così almeno valuti un pochino. Ok? Ehi, a 6, vai. Ecco qua, questa invece a quanto è? Senza muovere niente. 5, bianca. Ok, aspetta. Ehi, a... Ecco qua, questa invece ha cambiato qualcosa? 6. Quindi 5, 6, 6, così è. K. Aspetta, ecco qua, e invece così? Prova che sto parlando col piccolo, vai. Ecco qua, pronto? Ehi, a 7 abbondanti, 6 T. Va bene, la radio ha cambiato? No, sempre uguale. Non vai in saturazione, vero? Qua con questo che cassa sua notti, non sei saturo. Va bene, va bene. Allora, ho trovato un compromesso. Va bene, guarda, mi devi lasciare circa 10 minuti, un quarto d'ora che devo preparare un po' di cose per la sera, dai. Poi rientro. Va bene, già sono qua, dai, ti fai pure. D'accordo, a dopo. Ehi, ciao. Ciao, ti, buon proseguimento. Giulio. No, non parlo Giulio, ci sei? Male, mi ascolti. C'è l'alternata sotto. C'è l'alternata. Franco, tu sei? Io. Ah, ti stavo riconoscendo. Ehi, sto facendo un microfono a una radio. Cava, cava. Sei anche bassa di radio, eh. Me lo immagino. E devo riprenderlo tutto di nuovo, dai. Ce la sentiamo, ciao, grazie. Andare a dopo, fra. C'è nessuno sul 10? Avanti. Ma niente, come va questa radio? Normale, eh? 5 watt. Ottima per la truppa. Amplificata la radio? Il tanto giusto, T. Va bene. Questo è un 23 canali e un muletto e un Seat antico, là, diciamo. Va bene, forse la migliore in assoluto. Addirittura, caspita. Aspetta che provo l'altro microfono. Ehi, approvati. Dani. Ehi, a te. Ecco, questo è il più 5, vedi un po'. Va bene, è bella anche questa come modulazione. Me l'ha amplificata lo stesso. Vabbè, ma qual è meglio, il primo o il secondo passaggio che ho fatto? Guarda, per me questa va bene, lo stesso, è meglio dell'altra. Va bene, dai, tanto era giusto per provare un microfono differente per la radio che è. Va bene, dai, grazie. Prego, ti. Oh, l'altra era fortissima lo stesso, eh. Il 4. C'è... Vedi, questo va meglio, amplificata. Ehi, a questa è bello, è più forte dell'altra, eh. Va bene, dai. D'accordo, ti ringrazio per il momento. Gava, gava, adesso sono qua.